Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Il carro coperto verso cui mi avevano ordinato di dirigermi era fermo, come ho detto, nel cortile della fattoria, subito accanto a un altro lugubre veicolo della stessa specie. Erano entrambi ben zeppi di una torma di uomini arruolati sotto le bandiere del glorioso Federico, dal crudele ingaggiatore che aveva catturato anche me. Al lume delle lanterne delle sentinelle riuscii a vedere, mentre mi gettavano sulla paglia, una dozzina di figure nere, pigiate insieme in quella spaventosa prigione mobile in cui stavo per essere rinchiuso. Un grido e un'imprecazione dell'uomo di fronte a me mi fecero capire che molto probabilmente era ferito proprio come me, e durante tutta quella disgraziatissima notte i gemiti e i singhiozzi di quei poveri diavoli, imprigionati tutti insieme, formarono un coro ininterrotto e dolente che mi rese impossibile trovare nel sonno un po' di sollievo dai miei mali. A mezzanotte, o così mi sembrava, si attaccarono i cavalli ai carri e quegli arnesi scricchiolanti e traballanti vennero fatti partire. A cassetta sedevano un paio di soldati armati fino ai denti, e di tanto in tanto, attraverso la cortina di tela, si protendevano le loro facce torve e le lanterne per la conta dei prigionieri. Quei bruti erano mezzi ubriachi e cantavano canzoni d'amore e di guerra. Mi è poi accaduto di sentir cantare molte altre volte questi motivetti durante le marce, o nelle camerate delle caserme, o attorno al fuoco di notte, quando dormivamo all'aperto. Nonostante tutto, però, non ero neppure lontanamente infelice rispetto al mio primo arruolamento in Irlanda. Almeno, pensavo, se sono degradato a soldato semplice, non ci sarà nessuno di mia conoscenza a testimone della mia vergogna. Questo è sempre stato il punto più importante per me. In quel momento eravamo a tutti gli effetti lontani dal mondo, come se fossimo stati nelle solitudini della Siberia, e tra me e me ragionavo così. Ora che sei stato preso, non serve a nulla lamentarsi. Sfrutta meglio che puoi la tua situazione. Cerca di godertela per quanto è possibile. In tempo di guerra al soldato si presentano mille occasioni per saccheggiare, rubare e così via, da cui si può ricavare sia piacere che profitto. Fanne uso e sta felice. E poi sei straordinariamente coraggioso, bello e intelligente. Chissà che tu non possa procurarti qualche promozione in questo tuo nuovo servizio. Guardavo alle mie disgrazie in questa luce filosofica, deciso a non farmi sopraffare, e affrontavo le mie pene e la mia testa rotta con spirito superiore. Intanto mi occorreva non poca capacità di resistenza per sopportare il dolore della ferita, perché i sobbalzi del carro erano spaventosi e ogni scossa mi causava una fitta al cervello che sembrava dovermi spaccare il cranio. Quando fece giorno, vidi che l'uomo accanto a me, un essere macilento con i capelli gialli, vestito di nero, aveva un cuscino di paglia sotto la testa. «Sei ferito, camerata?» dissi io. «Grazie a Dio», rispose, «soffro nel corpo e nello spirito, e ho ammaccature in tutto il corpo, ma ferite no. E tu, povero giovane?» «Sono ferito alla testa», dissi, «e voglio il tuo cuscino. Dammelo. Ho un coltello a serramanico in tasca». E a queste parole gli rivolsi un'occhiata terribile che voleva dire, e lo intendevo davvero, «sentimi bene, a la guerre c'est à la guerre, e io non sono mica una femminuccia come ce n'è tante», che se non mi passava il suo guanciale gli avrei fatto assaggiare il coltello. «Te lo avrei dato anche senza minacce, amico», disse con voce mite l'uomo dai capelli gialli, e mi porse il suo sacchettino di paglia. Poi si appoggiò come meglio poteva all'indietro, contro la parete del carro, e cominciò a ripetere: «Una salda fortezza è il nostro Dio». Dal che conclusi che ero capitato in compagnia di un pastore protestante. Con gli scossoni del carro e l'incidente di viaggio, varie altre esclamazioni di passeggeri mostrarono che razza di compagnia disparata eravamo. Di tanto in tanto, uno dei tedeschi scoppiava in lacrime. Si sentiva una voce dire in francese «Oh mon Dieu, mon Dieu!» mentre una coppia della stessa nazionalità bestemmiava e chiacchierava senza sosta. E una certa allusione ai propri occhi e a quelli di tutti gli altri, giunta da un tipo robusto all'angolo opposto del carro, mi fece capire che nel nostro gruppo c'era certamente un inglese. Ma ben presto mi vennero risparmiate la noia e gli incomodi del viaggio. Benché ci fosse il cuscino del pastore, la mia testa, che già scoppiava di dolore, venne improvvisamente a contatto con la parete del carro. Cominciò a sanguinare di nuovo. Mi sentivo quasi svenire. Ricordo solo di aver preso un sorso d'acqua qua e là, poi una sosta in una città fortificata dove un ufficiale ci contò, ma tutto il resto del viaggio passò via in uno stato di sonnolenza torpida. E quando ne uscì, mi trovai in un letto d'ospedale, sotto gli occhi di una suora in cuffia bianca. «Essi sono affondati nelle più tristi tenebre dello spirito», disse una voce dal letto accanto, quando la suora, terminate le sue affettuose cure, si allontanò. «Sono nella notte dell'errore. Eppure, in quelle povere creature, c'è la luce della fede». Era il mio compagno del carro dei coscritti. La sua bella faccia larga, ben sprofondata nel letto vicino, spuntava da sotto un berretto da notte bianco. «Anche voi qui, Herr Pastor?» dissi. «Solo un aspirante pastore, signore», rispose il bianco berretto da notte. «Ma sia lodato il cielo. Finalmente siete rinvenuto. Ah, l'avete passata brutta. Parlavate in inglese, lingua che conosco bene, dell'Irlanda, di una signorina, di Nick, di un'altra signorina, di una casa in fiamme, dei granatieri inglesi, poi anche di una quantità di altre cose che certamente hanno a che fare con la vostra storia personale». «È una storia molto strana», dissi, «e forse in tutto il mondo non c'è un solo uomo della mia condizione le cui disgrazie siano lontanamente paragonabili alle mie». «Bene», disse il mio compagno d'ospedale, «non dubito che la vostra sia una storia strana e sarò lieto di sentirla più tardi. Ma per il momento non vi è permesso di parlare molto perché avete avuto a lungo la febbre e siete molto esaurito». La storia di quel mio bravo amico era molto curiosa e la si può riportare qui per dare un'idea dei materiali disparati che andavano a comporre le nostre leve. «Io sono sassone di nascita», mi disse. «Mio padre era pastore e da lui ha preso i primi rudimenti del sapere. A 16 anni, ora ne ho 23, essendo già padrone del greco e del latino, oltre che del francese, dell'inglese, dell'arabo e dell'ebraico, ed avendo ricevuto un legato di 100 talleri, somma più che sufficiente per pagare i miei corsi universitari, me ne andai alla famosa Accademia di Gottinga, dove dedicai 4 anni allo studio delle scienze esatte e della teologia. Inoltre, mi impratichii più che potevo di quei talenti che occorrono per la vita mondana. Presi un maestro di danza, seguii un corso di scherma da un esperto francese e frequentai le lezioni sul cavallo e sull'ippica tenute all'ippodromo da un celebre professore dell'arte dell'equitazione. È mia opinione che un uomo dovrebbe apprendere tutto quello che può per completare il suo ciclo di esperienze, e dato che tutte le scienze sono ugualmente necessarie, è opportuno che, secondo le sue possibilità, le conosca un po' tutte. Confesso di essermi scoperto inetto a molti rami del sapere naturale. Tentai di apprendere l'arte funambolica con un artista boemo capitato alla nostra accademia, ma fallii miseramente e mi ruppi il naso in una caduta. Provai anche a condurre il tiro a quattro usato all'università da uno studente inglese. Fallii anche in questo, nel piazzale della porta di Berlino, proprio davanti all'uscita posteriore di casa di sua signoria, rovesciai la carrozza con dentro la sua amica, Fräulein Mischitti. All'epoca di questo incidente davo lezioni di lingua tedesca al giovane Lord e di conseguenza fui licenziato. Naturalmente appresi le lingue dell'Europa meridionale, mentre le lingue del Nord, per chi ha una solida conoscenza del sanscrito, non presentano alcuna difficoltà. Se vi siete mai cimentato col russo, saprete che è un gioco da ragazzi. Ma sarà sempre per me motivo di rimpianto non aver mai imparato nulla o nulla di importante del cinese. Avevo anzi progettato, non fosse stato per questo impaccio in cui ci troviamo, di andare in Inghilterra e ottenere un passaggio su una delle navi della compagnia inglese dirette a Canton. Per mia natura non sono un risparmiatore, quindi la mia piccola fortuna di 100 talleri, che a una persona prudente sarebbe bastata per 20 anni, mi bastò appena per 5 anni di studio. Dopodiché i miei studi furono interrotti, i miei allievi scomparvero e fui costretto a passare molto tempo a risuolarmi le scarpe per risparmiare denaro e per poter riprendere in futuro la mia carriera accademica. Durante questo periodo sviluppai un attaccamento, e qui l'aspirante pastore sospirò un poco, per una persona che, benché non bella ai suoi 40 anni, sembra avere un'intima affinità con la mia esistenza. E un mese dopo il mio caro amico e protettore, il vice rettore dell'università, mi informò che il reverendo di Rumpelwitz era morto e mi chiese se mi sarebbe piaciuto venire iscritto nella lista degli aspiranti e se ero disposto a leggere un sermone di prova. Poiché l'assunzione a questa posizione avrebbe accelerato la mia unione con Amalia, accettai con gioia e preparai il discorso. Se volete ve lo recito. No? Bene, ve ne darò qualche estratto durante la marcia. Per procedere dunque con questo riassuntino della mia vita, che ora è quasi finito, predicai quel sermone a Rumpelwitz e credo che sia servito a risolvere una volta per tutte e in modo piuttosto soddisfacente la questione babilonese. Mentre eravamo a tavola, venne un cameriere a dire che una persona lì fuori voleva parlare a uno dei reverendi aspiranti. Quello alto! Potevo essere solo io, perché io superavo con la testa e le spalle tutti gli altri reverendi signori presenti. Uscii a vedere chi fosse la persona che desiderava parlare con me e trovai un uomo che non ebbe difficoltà a riconoscere come adepto della religione ebraica. Signore, disse l'ebreo, ho sentito da un mio amico che si trovava oggi nella vostra chiesa i punti principali dell'ammirevole discorso da voi pronunciato. Mi ha colpito profondamente, molto profondamente. Ci sono soltanto 1 o 2 punti su cui sono ancora in dubbio, e se vostro onore volesse acconsentire a illuminarmi su di essi, credo che Salomon Hirsch si farebbe convertire dalla vostra eloquenza. Quali sono questi punti, mio buon amico? Gli domandai, e gli esposi i 24 capi del mio sermone, chiedendogli su quali di essi pesassero i suoi dubbi. Durante questa conversazione avevamo camminato su e giù davanti all'albergo, ma le 2 finestre erano aperte, e i miei compagni, sentendo di nuovo il discorso di quella mattina, mi chiesero piuttosto seccati di non riprenderlo proprio allora. Io allora mi allontanai con il mio discepolo e, su sua richiesta, ricominciai subito a pronunciare il sermone dal principio, perché ho buona memoria per ogni genere di cose e so ripetere qualsiasi libro se solo l'ho letto 3 volte. E così, sotto gli alberi, nella luce calma della luna, tirai fuori quel discorso che avevo già pronunciato sotto il sole fiammeggiante del mezzogiorno. Il mio israelita mi interrompeva soltanto con esclamazioni che indicavano sorpresa, assenso, ammirazione e progressivo convincimento. «Prodigioso!» diceva. Wunderschön, ribatteva alla fine di un passo eloquente. In una parola, esauriva tutte le interiezioni elogiative della nostra lingua. E quale uomo è avverso ai complimenti? Dovevamo aver camminato 2 miglia prima che io giungessi al mio terzo capo. Allora il mio compagno mi pregò di entrare in casa sua, che ormai era vicina, e di prendere un boccale di birra, altra cosa alla quale non sono mai contrario. Quella casa, signore, era la locanda dove anche voi, se non erro, siete stato portato. Ero appena entrato che 3 arruolatori mi balzarono addosso, dissero che ero un disertore e che ero loro prigioniero, e mi intimarono di consegnare denaro e carte, cosa che feci pur dichiarando solennemente la mia qualità di sacerdote. E voi, dissi io, voi che eravate proprio sul punto di ottenere una posizione redditizia, voi che avete tanta cultura, non vi indignate per questo oltraggio? Sono sassone, rispose l'aspirante. Indignarsi non serve a nulla. Il nostro governo sta schiacciato sotto il tallone di Federico da 5 anni. Tanto varrebbe per me sperare nella compassione del Gran Mogol. Del resto, a dir la verità, non sono scontento della mia sorte. Ho vissuto con un tozzo di pane per tanti anni, che la razione del soldato mi sembrerà un lusso. Non mi importa di prendermi qualche sferzata in più o in meno. Questi sono tutti mali passeggeri e dunque sopportabili. Non ucciderò mai, con l'aiuto di Dio, un uomo in combattimento. Ma sono non poco ansioso di sperimentare di persona gli effetti della passione per la guerra, che ha avuto tanto potere sulla razza umana. Comunque, i capi del sermone che il mio amico teologo voleva recitarmi non vennero mai pronunciati. Dopo la nostra uscita dall'ospedale, lui fu distaccato in un reggimento acquartierato il più lontano possibile dalla sua terra natale, cioè in Pomerania, mentre io entrai nel reggimento Bülow, che aveva il suo quartier generale a Berlino. I reggimenti prussiani non cambiano spesso le loro guarnigioni, come invece fanno i nostri, perché il timore delle diserzioni è tanto forte che si rende necessario conoscere in viso ogni individuo in servizio. Perciò, in tempo di pace, gli uomini vivono e muoiono sempre nella stessa città. Questo non arricchisce, come si può immaginare, gli svaghi della vita militare. Se fornisco queste informazioni, che vorrebbero servire a descrivere le sofferenze morali di noi altri poveri diavoli nei ranghi, è solo per evitare che qualche giovane gentiluomo, come ero io, si incapricci della vita militare e immagini addirittura che quella del soldato semplice sia tollerabile. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.